brucia dentro di me. In me per sempre, di un inverno che mi ha strappato da te per sempre. La strada brucia, io sono il figlio dell'asfalto. Vengo da un blocco dove i cuori sono in amianto. Quanto pianto per essere più forte. Ho amici che per l'ero hanno abbracciato la morte. La mia sorte fra la vedi su una traccia. A volte un pugno mondo che si polverizza come sabbia. La mia rabbia per un cuore troppo grande. Dove sei pugnalato, da che sangue del tuo sangue. Ma la mia vita è una continua sfida. Dove sali in una strada senza via d'uscita. La mia stilo scrive automatica su un foglio. Capisce bene ciò che ho visto sputando inchiostro. Nei tuoi blocchi non mi fondi, ciò che allotti. Ti spaventeresti se indossassi per un minuto i miei occhi. La mia musica è più magica di quanto pensi. E se provi a decifrarmi, non so se riesci. Se ti guardi dentro ti ritrovi in una realtà. Dove incatenata resta la tua anima. Sento il freddo che brucia dentro di me. In me per sempre. Di un inverno che mi ha strappato da te per sempre. Il mio ego è più grosso dello zono. Se rimo lascio tracce di memoria in ogni uomo. Ho scritto sopra un foglio X come vendetta. Sta vita è un dono che ti viene consumata troppo in fretta. Ho dato una sola volta il mio cuore nel vero. Ho dato una sola volta un grande amore sincero. Fai del bene per poi ricevere del male. Per poi morire solo in un letto di ospedale. Dio mi ha dato il dono e giuro che lo tengo stretto. Mi culo tra le braccia della musica in cemento. Rispecchio ogni uomo che si sente solo. Perché un uomo è solo ciò che vuole in fondo spiccare il volo. Ci lamentiamo quando il mondo è in degrado. Ho combattuto per la giusta causa come a Stalingrado. One love, one peace, ragiono così. Mostro il mondo che attorno stendendolo su un beat. Se ti guardi dentro ti ritrovi in una realtà. Dove incatenata resta la tua anima. Sento il freddo che brucia dentro di me. In me per sempre. Di un inverno che mi ha strappato da te. Da te per sempre. Se ti guardi dentro ti ritrovi in una realtà. Dove incatenata resta la tua anima. Sento il freddo che brucia dentro di me. In me per sempre. Di un inverno che mi ha strappato da te. Da te per sempre.